Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, buonasera da Maurizio Melis. Di fronte a compiti immani come quello di rendere progressivamente più sicura l'Italia, di fronte ai terremoti per i quali le risorse per definizione sono insufficienti, la capacità di stabilire correttamente le priorità è fondamentale. Il territorio italiano in particolare è in larga parte sismico, ma come ci hanno insegnato anche i terremoti più recenti, gli effetti di un sisma possono variare molto anche a pochi chilometri, addirittura centinaia di metri di distanza. Poter contare su delle mappe di pericolosità che individuano le aree più a rischio di distruzione, diciamo così, permetterebbe naturalmente di concentrare gli sforzi laddove darebbero i maggiori frutti. È un problema di complessità enorme che tuttavia oggi è alla nostra portata. Ne è convinto Alfio Quarteroni, direttore della cattedra di modellazione e calcolo scientifico al Politecnico di Losanna e professore di analisi numerica al Politecnico di Milano, dove è in corso questo progetto di cui parliamo questa sera. Si chiama SPEED, sta per Spectral Elements Elastodynamics. Ma diamo il benvenuto al nostro ospite. Buonasera Quarteroni, bentornato. Buonasera, grazie. Allora, intanto ci aiuti un po' a capire i termini del problema. Quali informazioni oggi abbiamo e invece di quali informazioni abbiamo bisogno per fare queste mappe di pericolosità? Ma dobbiamo immaginare di avere a disposizione delle mappe geologiche che danno descrizione piuttosto dettagliata di certe aree che riteniamo particolarmente sensibili. A questo punto simuliamo degli scenari di rotture di faglie, le faglie sono conosciute naturalmente, o di spostamento di faglie, e questo sarà il dato del nostro problema. A valle di questo dato, i nostri modelli di simulazione permettono di capire come le onde che si generano per via di queste rotture di faglie si propagano nel terreno, in particolare arrivano ad impattare alla superficie del terreno, dove ci sono edifici, dove ci sono centri abitati, e vogliamo ricostruire le mappe di accelerazione sostanzialmente punto per punto sul terreno. Quindi voi volete sapere la violenza delle oscillazioni del terreno, diciamo così, quali sono le oscillazioni più pericolose? Diciamo che in superficie arrivano due tipi di onde, le onde cosiddette P di compressione e le onde S trasverse, trasversali rispetto al terreno. Possiamo pensare che queste onde sugli edifici abbiano un impatto maggiore perché scaricano un'energia più alta sugli edifici che possono sovrastare il terreno. Ecco, anche perché appunto gli edifici sono fatti per contrastare, diciamo, la forza di gravità, quindi sopportano abbastanza bene le spinte che, diciamo, vanno dall'alto verso il basso, mentre se li si fa oscillare, no, lateralmente, come sanno tutti i bambini con le costruzioni, insomma, l'edificio crolla molto, molto facilmente. Quindi voi dovete arrivare a questo livello di dettaglio nella simulazione. Questo è veramente l'obiettivo finale, cioè capire come un determinato scenario sismico ha effetti sul costruito. E quello che va ovviamente osservato è che la risposta del costruito varia molto da quartiere a quartiere, quindi è molto importante simulare la presenza di edifici diversi, tener conto delle diverse caratteristiche, se è un edificio in pietra piuttosto che in cemento armato, e addirittura la interazione fra edifici vicini. Senta, stato del progetto, di quali simulazioni vi state già occupando? Ma come sempre, quando si sviluppa un modello è assolutamente essenziale validarlo, ovvero verificare i risultati che il modello dà rispetto a situazioni che si conoscono perfettamente. Questo spiega perché ci siamo occupati con il modello di risimulare terremoti passati, come quello in Cile, come quello in Nuova Zelanda, perché vogliamo essere sicuri che il modello reagisca. Funzioni bene, certo. Esatto. Poi abbiamo simulato la situazione dell'Emilia-Romagna, il terremoto dell'Emilia-Romagna, perché era molto molto monitorato, avevamo i dati molto precisi e quindi abbiamo verificato effettivamente ancora il modello da risposte molto accurate. Stiamo ovviamente simulando possibili scenari futuri, ad esempio un grosso studio che stiamo facendo è sulla situazione sismica a Istanbul, che è un'area molto sensibile, ci si aspetta un terremoto di proporzioni piuttosto devastanti. E superiore all'ottavo grado, no? Addirittura. Superiore all'ottavo grado, che tiene conto naturalmente della dimensione della faglia attuale, e poi è su un territorio particolarmente sensibile, perché ci sono decine di milioni di abitanti, e questo anche motiva l'interesse a studiare questi problemi da parte delle compagnie di riassicurazione. Molti di questi studi sono anche finanziati direttamente da queste compagnie perché vogliono prevedere quelli che possono essere gli effetti anche economici, non solo naturalmente in termini di perdite di vite umane, ma gli effetti economici, e quindi determinare poi i loro livelli di rischio e di conseguenti certo. Di assicurazione. Ecco, le compagnie di riassicurazione, lo ricordiamo, sono quelle compagnie che assicurano altre compagnie di assicurazione, no? Compagnie di assicurazione esatto. Si assicurano l'una con l'altra proprio per scenari del tipo terremoto, tsunami, che hanno un impatto addirittura globale. Stiamo parlando di decine di miliardi di dollari di costi per ogni evento sismico di questo tipo. E in Italia intanto questo si può fare anche per l'Italia. Mi pare di poter dire che un interesse da parte del progetto Casa Italia già c'è. Adesso insomma speriamo che la cosa diventi strutturale. Sicuramente l'Italia è un paese particolarmente esposto, peraltro è molto ben conosciuto, le mappe di rischio sismico della Protezione Civile sono molto accurate, quindi abbiamo tanti dati, conosciamo quali sono i posti potenzialmente a rischio, si può quindi fare, credo, in senso generare un'operazione di prevenzione molto importante. Grazie, grazie professor Quarteroni. Grazie a lei, buonasera. Ci fermiamo qui, appuntamento come sempre a domani, buona serata.